sicuramente ha esercitato questa influenza e sicuramente ha usato parole molto efficaci su tanti temi. Il problema è che a quelle parole non sono seguite i fatti, e se si sta parlando di uno degli uomini comunque più potenti della Terra e sicuramente che ha in mano tutti i poteri sul Vaticano e sulla propria Chiesa, non ha mosso di una virgola quello che avevano fatto anche i precedenti papi, quindi alle parole non sono seguite i fatti. Questa è l'osservazione che ho portato nell'articolo che hai citato. C'è un altro passaggio in cui si sottolinea come, vabbè, adesso viene dipinto come rivoluzionario, invece voi dite insomma che aveva molti aspetti ambigui. Ecco, quali sono queste ambiguità? Diciamo, sì, viene dipinto come rivoluzionario e viene tirato per la giacchetta sia dalla destra che dalla sinistra. A questo punto uno si chiede, forse allora così rivoluzionario non era, a meno che non abbia ragione, diciamo, la sinistra progressismo rispetto alla destra. Gli aspetti controversi sono che ha mantenuto appunto la dottrina identica a prima, guardiamo solo come ha parlato dell'aborto, definendolo omicidio, ma soprattutto definendosi cari medici che prestano cure alle donne, oppure come è scivolato sulla, tra, apro le virgolette citandolo, frociaggine, dicendo che bisogna stare attenti ai gay che entrano nei seminari, quando qualche mese prima aveva detto invece, diciamo, in favore delle camere, chi sono io per giudicare, ma chiaramente chi sono io per giudicare chi? Un omosessuale che cerca Dio e accetta le condizioni della Chiesa. Quindi questi sono solo due aspetti che confermano appunto che non ha cambiato molto, anzi non ha cambiato nulla di ciò che diceva Ratzinger e di ciò che diceva Giovanni Paolo II. Da ultimo cito anche il fatto che non sono pervenute azioni concrete sul fronte degli abusi sessuali ecclesiastici, perché ancora oggi in Italia non c'è un'inchiesta indipendente, come c'è invece stata in tanti altri stati, che ha portato alla luce in numerosi scandali. In Italia c'è ancora la promozione degli sportelli diocesani, ossia una giustizia parallela interna alla stessa organizzazione che è famigerata a livello mondiale per gli scandali sugli abusi. Un'ultima battuta con una riflessione, diciamo, su invece sulla politica, perché insomma di leader spirituali nel mondo ce ne sono tanti, sta poi o meno a uno stato se è laico o meno, come dire, utilizzare le parole di una figura spirituale per seguirla. In questi anni, nei 10 anni di pontificato di Papa Francesco, c'è ancora un problema di subalternità della politica in Italia? Sicuramente, c'è stato con tutti i papi, non fa eccezione Francesco. E io ho esaminato i programmi elettorali del 2022 e me li lessi tutti, e venivano citati i papi. Diciamo, c'era una maggioranza di citazioni di Bergoglio da parte del centro-sinistra, invece di Giovanni Paolo II da parte del centro-destra, ma anche su temi su cui non ha particolare competenza, come la crisi idrica. Però c'erano forze progressiste che, anziché citare accademici, studi scientifici, preferivano citare il Papa. Questo appeal nella politica è ancora ben presente, mentre invece appunto si dovrebbe ragionare tenendo distinte le sfere